Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Il tempo scorre sempre più inesorabile, ormai con questa mancano solo 6 eclettiche, escludendo l'eclettica in edizione speciale che ci sarà nella 24 ore di chiusura di Rock FM, la 24 ore non stop che ci vedrà noi, tutte voci di Rock FM accompagnate anche da una serie di altri amici per salutare tutti voi dall'altra parte degli apparecchi radiofonici. In quel caso molti di quegli apparecchi radiofonici, leggo sul forum di rockfamily.it, saranno proprio qua, sotto la radio, ad aspettare che appunto alle 18 del 31 di maggio poi il segnale si spegnerà. Comunque diamo inizio ad Eclettica come tutti i giorni fra le 19 e le 20 in compagnia di Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo di mail giulio@rockfamily.it. Vi ricordo che di questa trasmissione ci sono le playlist che ricevete o direttamente nella vostra casella di posta nel caso siate iscritti alla lista nera di Eclettica, e per farlo basta mandare un mail all'indirizzo che vi ho appena detto, al mio indirizzo di mail personale, oppure le trovate su myspace.com/eclettica, dove trovate anche le istruzioni su come avvalervi, perlomeno fino al 31 di maggio, del podcasting. Negli anni più vulnerabili della mia giovinezza, mio padre mi diede un consiglio che non mi è mai più uscito di mente. Quando ti viene voglia di criticare qualcuno, mi disse, ricordati che non tutti a questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu. Non disse altro, ma eravamo sempre stati insolitamente comunicativi, nonostante il nostro riserbo, e capii che voleva dire molto più di questo. Perciò ho la tendenza a evitare ogni giudizio, un'abitudine che oltre a rivelarmi molti caratteri strani, mi ha anche reso vittima di non pochi scocciatori inveterati. Questo era l'incipit de Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Ooh. Thank you. Eclettica che sta cercando di dimostrare quali sono tutte le sfaccettature, perlomeno quelle musicali, che hanno dato origine al nome della trasmissione, anche se poi le sfaccettature non sono solo musicali, ma ci sono sicuramente anche quelle delle letture, quelle dei film e poi un po' tutto il resto, tutta l'atmosfera che si riesce a creare. Mi è piaciuto quel mail che ho letto l'altro giorno di quell'ascoltatore di cui in questo momento, scusami se stai ascoltando, mi sfugge il nome, che comunque ha scoperto Eclettica di ritorno da un allenamento di atletica. Quel suo spiegare come la mia voce vada da un estremo all'altro sono cose che vengono naturali, cose che io non cerco, che fanno parte di me e che rendo vostre grazie a delle frequenze radiofoniche che purtroppo sono destinate nel giro di qualche giorno a sparire. Eclettica che comunque, come vi dicevo, ritornando semplicemente alla musica, vi ha fatto ascoltare prima i Gregor Samsa con Jeroen Van Aken, un estratto del loro ultimo album che settimana scorsa, quando ho trasmesso per la prima volta, ha avuto modo di ricevere notevoli riscontri in chat dove mi trovavo durante la trasmissione, ovviamente la chat di rockfamily.it. Poi ci siamo appena ascoltati Wintermute con Shark vs. E-Boat e per dare quel tocco di sgangheratezza che perlomeno per oggi, ma anche nei giorni scorsi, non avevo ancora dato ad Eclettica, vado a prendere una traccia che è disponibile come download digitale, semplicemente come download digitale, cosa che si sta affermando sempre più frequentemente per fare scoprire degli inediti di band. Infatti la band in questione è una band che già abbiamo ascoltato più volte durante questa stagione in Eclettica, che torna all'interno delle playlist grazie a questa traccia, Spitfire. Loro sono gli All Death, più sgangherati di così non si può. Sulla bella costa della Riviera Francese, a metà strada tra Marsiglia e il confine italiano, sorge un albergo rosa, grande e orgoglioso. Palme deferenti ne rinfrescano la facciata rosata e davanti a esso si stende una breve spiaggia abbagliante. Recentemente è diventato un ritrovo estivo di gente importante e alla moda. 10 anni fa, quando in aprile la clientela inglese andava verso il nord, era quasi deserto. Ora molte villette vi si raggruppano intorno. Ma quando questa storia incomincia, soltanto i tetti di una dozzina di vecchie ville marcivano come ninfe in mezzo ai pini ammassati tra l'Hôtel des Étrangers di Goss e Cannes, 8 chilometri più in là. Questo era l'incipit di Tenera è la notte, di Francis Scott Fitzgerald. Thank you. uomo gratterai la barba del signore. Nonna! Raccontami un po', a Vienna com'è andata? Sì, beh, era diverso. Ti ricordi di Minà? Certo, mia cugina di primo grado. Si è sposata, ha due bambini. Ma è stronza come prima. E Sheila, te la ricordi? Ma sì. È diventata una pagnotta. Ha miliardi di peli sul viso, il ritratto di una gorilla. E Moji, ti ricordi di lei? Nonna, io mi ricordo di tutti. Ha divorziato, sembra che lui avesse un pistolino. Insomma, è quello che dice Shari. Cioè, l'ha detto a Mary che l'ha detto a me. Tanto li vedrai presto tutti.